Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, sicuramente un tema c'è ancora e c'è tantissimo sulle banche, perché lo diciamo? Perché oggi è un'altra giornata in cui improvvisamente sembrano essersi svegliati tutti, già era successo ieri, più 3,81% Milano. Va detto che oggi rispetto a ieri l'indice di Milano non è sicuramente almeno per un punto percentuale più alto di altri indici, però Parigi fa il 2,90% di rialzo, Francoforte più 2,20 e Londra più 1,70, quindi le borse dell'area euro sono comunque ben intonate, molto ben intonate. Per quello che riguarda il rialzo, questa mattina già avevano iniziato le borse asiatiche, Tokyo ha chiuso con un più 2,84%, Hong Kong più 3,20%. Perché? Perché i dati che sono arrivati dalla Cina, sulla Cina si concentrano tutti i dubbi, tutte le incertezze anche sulla crescita mondiale, i dati arrivati dalla Cina sono, perlomeno fanno respirare, più 11,5% l'export cinese a marzo, è il primo rialzo in 9 mesi e molti osservatori fanno notare che potrebbero essere i primi segnali, se non di una ripresa dell'economia cinese, quantomeno di una stabilizzazione dell'economia cinese. A casa nostra poi c'è tutto il tema delle banche, perché il fondo Atlante, che alcuni hanno battezzato Atlantide, ma insomma per ora si chiama Atlante, guadagna, fa e permette alla Popolare Emilia Romagna, come ipotesi, perché il fondo deve ancora operare, deve ancora c'è tempo ancora per altri ingressi, però insomma Popolare Emilia Romagna più 11,30%, Monte dei Paschi più 11%, Unicredit più 8,90%, Ubibanca più 8,30%, Pop Milano più 7,70%, Intesa San Paolo più 7,60%, Banco Popolare più 7,20%, e ancora Mediobanca più 5,20%. Fronte opposto, Buzzi Unice meno 1, Terna meno 0,40. Chi guadagna meno oggi il lusso, Luxottica più 1,30, Moncler più 1,50%. Tra i migliori e peggiori in assoluto oggi sul mercato, in modo che diamo anche un andamento complessivo, oltre ai titoli già citati, quindi Pop Emilia Romagna, Monte dei Paschi, c'è anche Deutsche Bank, guadagna 9%, Credito Valtellinese guadagna l'8,70%. Intesa San Paolo appunto più 7,60%, Pop Milano più 7,50%. Per quello che riguarda invece il rapporto di cambio, siamo a quota 1,1280. Di cosa ci occuperemo? Di nuovo di questo fondo, perché è determinante per l'andamento futuro delle banche. Avremo anche un approfondimento per quello che riguarda l'operazione di Cairo con l'appoggio di Intesa sul Rizzoli Corriere della Sera, e tra l'altro ci sono varie note oggi su questo. Il consiglio di amministrazione di RCS Media Group ha esaminato la comunicazione sull'offerta di scambio di Cairo e nota che il corrispettivo offerto è significativamente a sconto rispetto alle medie del titolo RCS a 3, 6, 12 mesi, quindi insomma è significativamente a sconto come prezzo per il titolo. Non è stata concordata con la società, però ribadisce l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, che quella di Cairo è una soluzione che ha grande valore industriale e può funzionare. Sappiamo che l'alternativa che è circolata in questi giorni è di un'offerta alternativa che vedrebbe come ruolo centrale Vincent Bolloré, colui il quale ha fatto già l'operazione su Telecom Italia, ma ha comprato, come sappiamo, anche la parte premium da Mediaset. E alcuni dicono che l'obiettivo di Bolloré, del francese Bolloré, sia quello di arrivare a diventare un po' il Murdoch europeo, quindi quello che gli inglesi chiamano un tycoon dell'editoria, che controlla tanti aspetti in un'editoria, in un mondo dell'offerta di contenuti e di offerta di media che è sempre più integrata. Questo è un altro tema che tratteremo, quello che poi avremo aggiornamenti dall'inaugurazione del Salone del Mobile di Milano. Passiamo dal Vinita al Salone del Mobile. Oggi l'ho inaugurato sempre il Presidente del Consiglio Renzi, di ritorno dalla missione, dall'incontro questa mattina in Iran. Certo che c'è anche il tema delle pensioni, questo è importante perché il Ministro Giuliano Poletti ha firmato il decreto che disciplina le modalità della norma introdotta dalla legge di stabilità 2016. C'era già la norma, mancava il decreto attuativo, adesso ce l'abbiamo ed è quello che permetterà di utilizzare un part time particolarmente agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione, quelli che sono in uscita. Il nuovo meccanismo è destinato ai lavoratori del settore privato con contratti a tempo indeterminato e orario pieno che possiedono già il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi, e che vadano a maturare il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018. È un tentativo diciamo di rendere un po' più flessibile, in questo caso non è la flessibilità in uscita chiesta da più parti, a partire dai sindacati, e per tutti quelli che per colpa della Fornero, diciamo così, si sono trovati ancora a lavorare pur facendo lavori usuranti, è un principio di flessibilità nella parte finale che manca la pensione. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Arriva il part-time agevolato per i lavoratori più vicini alla pensione. È pronto il decreto che consente ai dipendenti del settore privato di optare per un contratto a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro tra il 40 e il 60%. Potranno fare questa scelta, che andrà concordata con la propria azienda, i lavoratori che hanno almeno 20 anni di contributi e che raggiungeranno i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2018. Bisogna quindi avere almeno 63 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 62 e 7 mesi per le donne. Si lavorerà di meno, ma la riduzione dello stipendio sarà parziale, perché l'azienda verserà direttamente al lavoratore la quota di contributi che sarebbero stati a suo carico in caso di contratto full time. In più, lo Stato si farà carico dei contributi previdenziali. Nel calcolo della pensione il lavoratore non subirà quindi alcuna perdita. A disposizione per ora ci sono solo 60 milioni di euro, quindi vedremo quanti saranno i soggetti che potranno beneficiare di questo sistema. Ma questa forma di part-time persegue due obiettivi: consentire ai lavoratori più anziani un passaggio morbido dal lavoro alla pensione e al tempo stesso offrire più opportunità per l'inserimento dei giovani nelle aziende. È una misura importante, in effetti, anche per un altro motivo, perché rappresenta il primo passo verso quelle forme di flessibilità per l'accesso alla pensione sulle quali il governo ha più volte promesso di voler intervenire. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, veniamo alle altre notizie. Abbiamo già detto della Cina, le notizie in breve come sempre a quest'ora. Per quello che riguarda invece il Fondo Monetario, anche oggi è tornato sui rischi per la stabilità finanziaria, il calo dei prezzi delle commodity, quindi petrolio in primis, ma non solo, i timori sull'economia cinese. Ancora su Brexit, sull'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, torna il Fondo Monetario, sarebbe uno shock negativo per la Gran Bretagna e l'Unione Europea. Le banche nelle economie avanzate sono più resistenti a possibili shock grazie alle riforme decise, continua il Fondo Monetario, ma restano delle debolezze perché il 15% delle banche si trova ancora a far fronte a sfide significative per raggiungere la redditività senza riforme. E poi il Fondo Monetario fa anche i conti di quali potrebbero essere l'ammontare delle sofferenze cinesi, prestiti concessi alle aziende. Sappiamo che in Cina, insomma, anche le banche hanno un controllo abbastanza politico. 1300 miliardi. In effetti, se pensiamo che solo da noi hanno raggiunto per via della crisi 200 miliardi lordi, 1300 miliardi in Cina ci può stare, anche se è incredibile come dato, il 7% del PIL cinese. E poi dice sempre il Fondo Monetario che le banche europee hanno ancora 900 miliardi di euro di non performing loans, di sofferenze bancarie, di crediti deteriorati, e dice: attenzione, occorre una soluzione subito, non si può più posticipare. In Italia, con tutto il giudizio che uno può averne su questo fondo Atlante, almeno una soluzione la stiamo cercando. E l'Italia però è molto sopra la media europea quanto a sofferenze bancarie, l'11% del totale degli impieghi. In Spagna sono solo il 6,7%, in Gran Bretagna il 2,8%, e plaude ad Atlante, è il passo nella direzione giusta. Le banche italiane hanno fatto molta strada. E ancora il direttore esecutivo per l'Italia al Fondo Monetario, che è Carlo Cottarelli, dice: è una cosa giusta il Fondo Atlante, importante da fare, è nella direzione che il Fondo Monetario Internazionale ha indicato. Ha invece dubbi sul Fondo Atlante l'agenzia di rating Fitch, vi è il rischio di un aiuto di Stato. La nascita del fondo potrebbe richiedere il vaglio della Commissione Europea, indebolisce le grandi. Perché? Perché sappiamo che per ora sono Intesa e Unicredit in primis aver messo i soldi, tant'è che oggi il numero uno Messina, numero uno di Banca Intesa, dice: beh, la nostra partecipazione come Intesa San Paolo nel Fondo Atlante, se sarà approvata, non supererà il 20%. E poi ha aggiunto, attenzione, è scandaloso che in Italia ci vogliono 7 anni per recuperare un credito in sofferenza, è necessario scendere a 3 anni. Veniamo al Salone del Mobile. Allora, il primo ministro Renzi è tornato da Teheran, ha inaugurato anche il Salone del Mobile, ha detto: vorrei che fosse un appuntamento fisso per il Premier, è un luogo di eccellenza straordinaria, è bene che gli italiani e le italiane lo sappiano. Ho ricevuto un emendamento da Snyder, che è il presidente di Federlegno, quindi chi poi organizza il Salone del Mobile, perché le leggi si fanno anche così, gli emendamenti si approvano anche sulla base di queste pressioni legittime delle associazioni. Snyder aveva chiesto più volte che venisse aumentato il plafond del bonus per le giovani coppie che acquistano arredamento. L'arredamento. Il bonus è stato confermato, anzi è stato allargato. Io non so se dirlo ad alta voce, ma giusto per dire come funziona il meccanismo parlamentare. Quando si arriva alla legge, in questo caso di stabilità, ricevo un SMS sconvolto di Snydero dicendo: guardate che con questa operazione che state facendo, perché noi avevamo discusso a lungo, nel confronto normale le leggi si fanno anche così. Gli emendamenti si approvano così, così lo diciamo in modo trasparente. Cosa succede? Loro, la realtà italiana, ha chiesto più volte che potesse essere aumentato il plafond del bonus. Si era partiti da 8.000, poi 10.000, poi siamo arrivati a 16.000. Il plafond delle giovani coppie. Voi sapete che quest'anno le giovani coppie che acquistano arredamento possono avere questo bonus, che è importante, che è uno strumento per incentivare il settore. Ah, ma tu vai avanti con i bonus? Sono gli incentivi per rimettere in moto i consumi interni. Bene, è stato proprio grazie ai suggerimenti, alle iniziative, alla pressione del tutto legittima e democratica che è arrivata dalle realtà di categoria italiane, che il Parlamento, nella sua autonomia e nella sua libertà, di portare il plafond a 16.000 euro. Perché? Per valorizzare la qualità italiana. Allora, ancora due notizie in breve, poi passiamo al primo tema, che di nuovo è Fondo Atlante, perché è un tema delicatissimo. Da qui passa, lo dico senza retorica, ma passa il rilancio delle banche italiane, e quindi a questo punto anche l'ultima, più che scusa, l'ultimo elemento che veniva utilizzato per spiegare dalle banche come mai prestassero così pochi soldi alle imprese. Ma andiamo con ordine. Oggi invito chi non l'avesse fatto a leggere l'intervista sul Sole 24 Ore del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, in cui ipotizza anche un possibile collocamento sul mercato di una seconda tranche di Poste Italiane. È una possibilità. In ogni caso il governo, lo Stato manterrebbe sempre il controllo delle Poste, e poi sta valutando il governo se ci sono ancora spazi per riutilizzare la voluntary disclosure, quindi la regolarizzazione onerosa, costa, dei capitali all'estero. Nel frattempo, sulla vicenda particolarmente sgradevole di Almaviva, ossia il gruppo multinazionale che ha previsto 2.988 esuberi in Italia, di cui 1.670 a Palermo, 920 a Roma e 400 a Napoli, il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova ha chiesto al gruppo Almaviva di ritirare l'intero piano. C'è stata una riunione al Ministero dello Sviluppo Economico proprio sulla crisi di Almaviva. Allora, dunque, vedo che chiaramente adesso tutti i messaggi al 349-238-6666, sia su WhatsApp che su SMS. Poi ricordo che c'è anche la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, commentano quanto dichiarato Renzi, che con l'SMS. Allora, a me la notizia sembra un'altra, cioè che le associazioni di categoria, nel caso specifico chi rappresenta il legno arredo in questo paese, e quindi uno dei quattro pilastri del nostro export, ricordiamo sempre, alimentare, le 4A, automotive, legno arredo e abbigliamento, che un settore chieda al governo, per esempio, la proroga di alcuni incentivi, di alcuni bonus, che faccia presente le sue istanze, mi sembra normalissimo, e esistono per questo le associazioni di categoria. Se volete, dal mio punto di vista non trovo nulla di scandaloso in quello che ha detto Renzi. L'unica notizia che vedo è che quando Renzi arrivò disse che, insomma, lui voleva disintermediare, quindi rapporto diretto. Mi sembra che questa invece sia una missione che le associazioni di categoria, se non sono, diciamo, se servono per capire le esigenze di una categoria, quindi il tema è della rappresentazione dei problemi, non tanto della rappresentanza e chi se ne frega, servono anche le associazioni di categoria. All'inizio era partito molto disintermediando, poi in realtà noi abbiamo detto modestamente, però per avere la rappresentazione di quelli che sono i problemi di una categoria devi parlare con qualcuno che ste categorie le rappresenti. Allora, professor Donato Masciandaro, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Dunque, abbiamo spiegato già ieri, ma lo ricordo, quello che abbiamo capito per ora del Fondo Atlante. Dote, intanto cosa serve? Serve a dare una garanzia per le banche che dovranno aumentare il capitale e dovessero avere un inoptato, cioè tu chiedi un aumento di capitale, chiedi un miliardo sul mercato, non tutti te lo danno, e quello che avanza, che non è stato, dove non vi è stata adesione, si chiama inoptato. Ma anche e soprattutto servirà a dare una garanzia a quelle sofferenze, a quei crediti non più esigibili, non performing loans, che sono di qualità peggiore, perché sappiamo che i senior per l'accordo con l'Europa possono essere in parte garantiti come assicurazione, pagando, insomma, dallo Stato italiano. Quelli junior, quelli di peggiore qualità, dovrebbero avere la garanzia, diciamo, di questo fondo, anche se il 70% dei 6 miliardi che ha come dotazione iniziale dovrà essere destinato alle ricapitalizzazioni, il 30% è non performing loans, e concentrandosi sulle tranche, diciamo, di peggiore qualità. Per ora i soldi che ce li ha messi? Le principali compagnie assicurative 1 miliardo, le fondazioni 500 milioni, le banche per ora, perché c'è tempo, 3 miliardi, una a testa Unicredit e Intesa San Paolo e poi le altre. La Cassa Depositi e Prestiti metterà circa 600 milioni. Atlante potrà finanziarsi sul mercato e quindi aumentare la dotazione iniziale. Ho visto oggi che fonti del Fondo Atlante, che sarà gestito dalla SGR Questio di Cariplo, guidata da Alessandro Penati, fonti da Atlante dicono che punta a un rendimento medio del 6%, questo è l'obiettivo appunto di Atlante, e che arriveranno almeno 3 miliardi dagli istituti di credito. Prima domanda, Masciandaro, lei che è sempre molto schietto e diretto, non sono un po' pochi questi soldi o è solo la parte iniziale e poi si spera nella un'adesione anche di altre banche e un'adesione del mercato? È uno dei nodi da sciogliere e affrontare. Io non l'avrei chiamato Atlante, l'avrei chiamato Odisseo. Perché l'idea è buona. Ci sono un po' di nodi da sciogliere. Il primo è quello che lei ha già sottolineato, quello delle dimensioni. Il secondo è la compatibilità con le regole del gioco europeo. Il terzo è la capacità del governo di disegnare quelle riforme che dovrebbero rendere più efficiente il sistema del recupero crediti e quindi rendere tutto l'investimento più conveniente, perché lei ha detto che Atlante è una forma di garanzia. Beh, quello è l'effetto finale. Chi è in Atlante vuole innanzitutto fare un buon investimento. L'idea è quella di far fare un buon investimento a soggetti che hanno una vista un po' più lunga rispetto ai mercati in questi giorni e allo stesso modo dare anche una garanzia di natura sistemica senza urtare le regole europee. Per questo mi sembra più un odisseo che ha una bella idea. Infatti Fitch, l'agenzia di rating Fitch, oggi dice che il rischio che diventi un aiuto di Stato c'è. Allora, professore, resti con noi perché gli ascoltatori chiaramente su questo, quelli che hanno capito che attraverso questo fondo può passare, se partirà, anche, non dico la liberazione delle zavorre bancarie, però insomma può rappresentare una svolta, un giro di boa in quello che abbiamo visto essere il tema di maggiore debolezza in questi mesi per le nostre banche. Devo dare una risposta ad alcuni ascoltatori, che io capisco l'antirenzismo, ma dunque, in primo luogo alcuni mi scrivono: beh, allora anch'io manderò un SMS. Ragazzi, non scherziamo, se tu rappresenti un sindacato, un'associazione di categoria, rappresenti decine di migliaia di dipendenti e spesso migliaia di aziende e miliardi di fatturato, è ovvio che se tu sei presidente del caso di Snyder o di Federlegno, il tuo SMS vale per tutta la categoria che rappresenti. Anch'io, se mando il mio SMS come Sebastiano Barisoni a Renzi, manco lo guarda. Però io notavo che rispetto all'approccio iniziale, non ho bisogno delle categorie che rappresentano interessi, vado a disintermediare, c'è un leggero spostamento da parte del Presidente del Consiglio. Ho usato il termine rappresentazione, non rappresentanza, perché la rappresentanza mi interessa poco, come si organizza internamente, come votano, così. La rappresentazione delle esigenze dei settori produttivi mi interessa molto, cioè qualcuno che riesca a portare a sintesi varie esigenze diverse e rappresentarle a chi ha la leva dell'esecutivo e la leva del legislativo, e quindi a chi deve proporre le leggi e metterle in pratica. Questo era il tema. Comunque, meteo, pubblicità e poi professor Masciandaro, cerchiamo di capire quanto dovrebbe essere secondo lei una dotazione per essere sufficiente, perché su 6 miliardi 70% pagamenti di capitale. Se qua partono Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ti sei mangiato solo con quei due aumenti buona parte degli aumenti di capitale. Dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da Insieme per il vino, alleanza delle cooperative agroalimentari, Federvini, Unione Italiana Vini. Focus Economia. :17:40, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo tante domande sul tema delle banche. Ce n'è una di fondo Diciamo, perché anche questa volta dobbiamo aiutare le banche? Allora, signori, però, vediamo di metterci d'accordo. Non possiamo dire da un lato perché aiutiamo le banche e dall'altro, tutte le volte, guardate cosa è successo con le quattro banche di credito cooperativo, magari, le quattro banche popolari, a fine novembre, tutte le volte che c'è il rischio che una banca salti o vada verso il bail-in, che adesso non è più un rischio perché è legge, scatta il panico e bisogna dire però non possiamo fregare i correntisti, gli obbligazionisti e quant'altro. Le banche, purtroppo, per fortuna, hanno una valenza sistemica. La sola idea che una banca non possa garantire i conti correnti scatena il panico. Se poi vogliamo tenerci 200 miliardi di sofferenza, che, diciamola tutta, in alcuni casi le banche hanno fatto, l'abbiamo visto con l'Etruria, con la Marche, la Ferrara e la Chieti, hanno fatto e anche Cassa di Risparmio di Genova con gli amici, la Pop Vicenza, Veneto Banca, prestano soldi agli amici e in maniera anche assolutamente da reato. Però in molti casi queste sofferenze le banche se le sono imbarcate perché è crollata l'economia italiana dal 2008 in poi, cioè, quando tu sei ancora 9 punti percentuali di PIL sotto il 2008 e ne hai perso all'inizio un quarto di produzione industriale, chiaro che alcune aziende sono saltate, queste avevano prestiti bancari, non li possono più ridare indietro. Comunque, Masciandaro, la vorrei un po' più determinato sulla dotazione, perché poi il punto è anche questo: quanti soldi servirebbero perché uno dicesse vabbè, questo è un fondo che ha un po' di spalle, visto che si chiama Atlante, le ha? Il nome è sbagliato. Mi lasci tornare innanzitutto sull'uso improprio del sostantivo aiuti alle banche. Mm-hmm. Di che cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando di aiuti alle banche. Non è vero, sono soldi privati. Sono soldi privati. Due, ripeto, si è partiti, la partenza è stata col piede sbagliato, l'idea è buona, ma perché rullare questi tamburi? Non diamo un'idea sbagliata di un'iniziativa che è privata, di soggetti che vogliono provare a fare un buon investimento e che forse verranno aiutati dallo Stato, perché lo Stato fa finalmente una riforma che rende più efficiente le corti. Ecco, questo non è un aiuto alle banche. Il fatto che le corti siano più efficienti serve a tutti i cittadini, non alle banche. Quindi, tornando alla sua domanda, oggi, in questo momento, è troppo presto per chiedersi il Atlante alle spalle larghe o piccole. Dipende da che cosa farà e che cosa farà. Potremo solo scoprirlo vivendo, perché in questo momento abbiamo solo pochi elementi di un'iniziativa privata, di soggetti che vogliono avere un orizzonte un po' più lungo di quello che in questi giorni hanno i mercati finanziari, e sono soggetti che ad esempio sono le fondazioni bancarie, che il cui sport preferito di solito è insultarle, poi alla fine, quando il sistema ha avuto bisogno di capitali pazienti, chi è che ha sottoscritto gli aumenti? Banche, guarda caso le fondazioni bancarie. Quindi, se la smettessimo un po' con gli slogan e provassimo un po' a guardare i numeri, prima lei diceva giustamente aiutare le banche, ma perché aiuto? Le sofferenze, perché ci sono tante sofferenze? L'ha appena detto lei, c'è stata la più grande recessione dal dopoguerra. In un paese in cui la finanza è solo banche, è evidente che anche le sofferenze sono le più grandi dal dopoguerra. Allora, altro aspetto, e questo diciamo è l'aspetto diciamo della dotazione, dice ancora presto, sì, sul rullare di tamburi sono d'accordo con lei, è un po' la tendenza di questo governo, no? Che appena fai una cosa la pompi subito, forse si poteva adesso aspettare e vedere quante altre adesioni sarebbero arrivate. Il fronte invece degli aiuti di Stato, quello non l'ho capito, perché insomma Fitch, vabbè, perché uno può anche vivere senza Fitch, però dice insomma qui c'è il rischio che la Commissione Europea si mette di traverso. Io non capisco bene dove, sì, certo che c'è una partecipazione della CDP molto bassa rispetto, mi sembra, al 10%, non di più, rispetto al capitale iniziale. Però come la vede Masciandaro sul fronte degli aiuti di Stato? La vedo che con l'Europa esiste sempre un rischio di infrazione, perché non ci sono delle regole chiare. Voglio dire, come si fa a definire che il fondo interbancario è un aiuto di Stato per il solo fatto che esiste la Banca d'Italia all'interno del board, che non ha che ha una funzione diversa da quella di decidere dove vengono allocati i fondi? Quello che voglio dire è che se l'Europa avesse regole chiare sugli aiuti di Stato, noi non potremmo parlare di questo rischio. Siccome finora l'Europa non ha avuto una politica chiara su che cos'è l'aiuto di Stato, quindi c'è altissima discrezionalità, e poi l'iniziativa non arriva dai paesi centrali ma arriva da un paese periferico come l'Italia, sappiamo benissimo, almeno finora, che qui i rischi sono aumentati. Per cui forse anche da Bruxelles bisognerebbe pretendere maggiore chiarezza, e in caso di non chiarezza andare verso la Corte di Giustizia. Il governo italiano ha fatto un errore a fermarsi nella passata edizione. Se stavolta ci fosse l'osservazione dell'Europa basate su sabbie mobili, su argilla, non bisogna fermarsi, bisogna dire la Corte e andare avanti. Allora, secondo lei quando capiremo, per concludere Masciandaro, se questo fondo realmente potrà avere questo effetto di, da un lato, garanzie e soprattutto abbassare anche i prezzi, scusatemi, non abbassare i prezzi, ma rendere meno svantaggioso per le banche cedere le sofferenze? Quando lo potremo capire? Beh, passo dopo passo. Innanzitutto, da un lato, capire chi aderisce, quindi quanto sono larghe le spalle, e poi passo dopo passo quali sono gli interventi, perché, come diceva lei, d'ora in avanti ci saranno tutta una serie di occasioni in cui si potrà misurare da un lato chi vuole investire, dall'altro in quali utilizzi fare, a partire dai primi aumenti di capitale che si stanno ma lei si è dato una spiegazione perché la borsa, dopo uno scetticismo bello pesante iniziale ieri, è cresciuta, adesso ha chiuso? Vi do il valore finale, se lo becco, non lo becco più, eccolo qua. Comunque, eccola qui, con un Monte dei Paschi più 12% quasi, Pop Emilia Romagna più 11,5%, Unicredit più 10,60%, Ubibanca più 8,90%, Intesa San Paolo più 8,30%, Pop Milano più 7,90%, Banco Popolare più 7,80%. Perché ormai abbiamo capito che, date le caratteristiche dei mercati finanziari, dimensioni e complessità, data una notizia può essere più o meno rilevante, quindi il mercato reagisce o non reagisce, la direzione dell'azione è ormai assolutamente imprevedibile. L'abbiamo visto qualche settimana fa rispetto alle reazioni schizofreniche a quello che Draghi diceva. Draghi parlava, quindi la notizia era rilevante, ma la direzione del mercato era assolutamente imprevedibile. Tutto qui è un, come dire, non dovremmo più meravigliarci di questa schizofrenia, perché il loro orizzonte non è quello della neanche del medio periodo, è del secondo dopo secondo, quindi chiaro. Chiaro il ragionamento che fai, cioè speculazione pura. Tant'è che vedo che adesso Milano ha chiuso con un più 4,13%, Parigi più 3,30%, Francoforte più 2,70%, Londra più 1,80%, il Dow Jones in questo momento più 0,85%. Grazie a Donato Masciandaro, editorialista del Sole 24 Ore, nonché chiaramente docente di politiche monetarie e monetarie all'Università Bocconi. Allora, tra l'altro dimenticavo, a chi ce lo chiede, che in effetti non l'ho detto, nella seconda ora ci occuperemo del referendum di questo fine settimana, quindi chi è contro le trivelle, la dico male, poi lo spieghiamo bene, voterà sì, chi invece è a favore dell'attuale status quo voterà no, sentiremo le ragioni dei no e le ragioni dei sì dalle 18.07 in poi. Adesso devo lanciare il traffico, però ringrazio Antonello Olivieri per averci raggiunto in studio del Sole 24 Ore. Buonasera Antonella. Buonasera. Perché l'altro tema di oggi, su cui è intervenuto anche molto Messina, il numero uno di Intesa San Paolo, è Rizzoli, Corriere della Sera, l'offerta di Cairo. È meno un tema forse di borsa oggi, insomma, però sì, esatto. Però la cosa vera è che Mediobanca, che oggi guadagna il 5-20% probabilmente sulla scia di tutte le altre banche, ha fatto sapere in maniera abbastanza chiara che l'ipotesi Cairo con dito d'intesa per comprare il Corriere non le piace, e a questo punto, come avvenne, se qualcuno si ricorda la storia di questo paese, c'è la chiamata dei francesi. La chiamata dei francesi, in questo caso si chiamano Bolloré. Ma posso dubitare? Va bene, allora dubita ancora per 2 minuti che ho il traffico. Focus Economia. Allora, domanda secchissima: perché non credi che vi sia una controfferta, Antonello Olivieri, Mediobanca, che chiami in aiuto Vincent Bolloré? Credo, io credo che sia proprio da escludere, perché Bolloré non può fare l'assopigliatutto in Italia. È dici già Telecom, Mediaset Premium? Sì, cioè... Però uno può dire, se vuole diventare il nuovo Murdoch europeo, il tycoon dei media, avrebbe un senso. Diciamo che gliel'ho anche chiesto, l'ho chiesto alla società, e la risposta è stata no, che lo escludono. Non è che credo a tutto quello che mi dicono, però... Devo dire che al ragionamento mi sembra veramente impossibile che uno straniero venga e si prenda tutta l'Italia. Cioè dici Telecom, tutta l'Italia su un fronte, diciamo, delle sinergie che si vanno a creare nella filiera della comunicazione, cioè Telecom per quello che riguarda chi trasporta i contenuti e poi li produce, Mediaset sui premium, sui contenuti veri e propri, tu dici anche il Corriere della Sera. E allora perché Nagel, solo perché Nagel si è un po' irritato per l'operazione? Questo probabilmente c'è anche un po' di orgoglio di istituzione, se si pensa che Mediobanca è sempre stato il primo o secondo azionista di RCS. È anche vero che hanno iniziato una dismissione, avevano il 15% fino all'anno scorso, adesso hanno poco più del 6%. Mm. E si sono fermati perché una volta sciolto il patto non si riuscivano a mettere d'accordo di fatto sul rinnovo del consiglio, e quindi hanno riformalizzato una specie di patto volante di 24 ore per esprimere un consiglio. Il punto è il prezzo, nel senso che effettivamente l'operazione di Cairo, così come è stata costruita, valuta RCS 60 centesimi. Dall'altra parte la valutano almeno un miliardo, e non sono, delle situazioni di parte. Da una parte c'è la domanda e da una parte c'è l'offerta. Sono due metodi di arrivare alla valutazione di un bene che sono molto distanti. Domanda e offerta sono molto distanti. Però è anche vero che o si trova un accordo o altrimenti a soffrirne veramente l'azienda. È quello il problema. Cioè, qua non dobbiamo dimenticarci, a me proprio non interessa quello che capiterà, però non dobbiamo dimenticarci che il gruppo Ritorno Corriere della Sera ha l'uscita della Fiat, nessuno che vuole metterci i soldi, nel senso, non abbiamo visto altre manifestazioni di interesse, lo dico in maniera un po' brutale, ma insomma non abbiamo visto, c'è stata voce di un interessamento della Techint di Rocca, di Pesenti, ma insomma, non nulla c'è stato, per cui... È normale che il CDA dica, beh no, ci stai comprando a sconto e tiri sul prezzo, questo è normalissimo, è anche legittimo. Però hanno dato un metodo per dirlo, effettivamente le quotazioni erano più alte, effettivamente il titolo ha risentito della prossima uscita di Fiat, perché praticamente aumenterà il flottante venditore, chiamiamolo così. Per cui dici, c'è del vero nel fatto che se non si può guardare solo l'ultimo prezzo di Ritorno di Corriere della Sera, guardiamo sui 3-6 mesi, perché era stato particolarmente penalizzato dall'uscita della Fiat per l'operazione stampa secolo XIX con Repubblica. Grazie anche a Antonello Olivieri, grazie, perché insomma brevissimo, cioè smento ogni cosa. Andiamo su GR24, poi il resto della borsa e il referendum sulle trivelle. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10:30, con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital. State ascoltando un programma offerto da Insieme per il vino, Confagricoltura, CIA Agricoltori Italiani, Federdoc, Assoenologi. Focus Economia. Di 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, arriviamo adesso al referendum Trivelle. Prima però vorrei concludere l'approfondimento di borsa, anche se molto ne abbiamo parlato sul fronte bancario, insomma, per quello che riguarda il fondo Atlante, anche sulla vicenda RCS. Cairo, Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Restano fuori altri titoli da questi ragionamenti, penso a Generali più 3,80%, oggi Caltagirone ha aumentato la sua quota, ma soprattutto il titolo ha guadagnato 10% nelle ultime 4 sedute. Sì, Generali è ritornata un po' sotto il riflettore, ha guadagnato il 10% in 4 sedute, c'è stata qualche raccomandazione positiva da chi e dai broker che la vedono come una dei gruppi assicurativi a, diciamo, a prezzi e valutazioni più scontate sul mercato rispetto ai concorrenti. E poi la comunicazione di Caltagirone, è salito sopra il 3% del capitale, è stato un fattore positivo per il titolo, che ha superato quota 13 euro per azione. Ancora per quello che riguarda le altre indicazioni di borsa, segnalo Azimut più 6,50, Mediobanca appunto più 5,20, Bene Fiat più 5% su Exore, più 4,75% su Fiat Chrysler, Unipolsai più 4,60, CNH più 4,60, Mediaset più 4,5%, Unipol più 4,40, Ferragamo più 4,20 come ST Microelectronics, Eni più 4%, Saipem più 3,90%, meno in crescita, diciamo quasi al palo, i titoli legati al cemento. Chiudiamo su questi: Buzzi Unicem più 0,38, Italcementi più 0,58. Sì, una giornata sostanzialmente di debolezza, perché ieri sono arrivati i dati ufficiali su quella che sono i volumi di cemento, l'andamento dei consumi di cemento in Italia nel mese di marzo. Complessivamente il mercato ha accusato una flessione del 7%, un inizio dell'anno debole da parte comunicata all'associazione di settore. Ecco perché Buzzi Unicem e Italcementi hanno un po' faticato invece in un mercato complessivamente molto brillante. Allora, migliori e peggiori, beh, tutte le banche abbiamo già dette, i peggiori sostanzialmente Seat pagine gialle, vedo adesso sul listino meno 10%, Ambro Mobiliare meno 5,50 e Safebag meno 3,21%. Grazie anche Andrea Fontana. E allora, si vota domenica prossima, 17 aprile, per il referendum sulla durata delle concessioni delle piattaforme attive in mare e situate fino a 12 miglia dalla costa, sono circa 22 chilometri e 200 metri. Su questo si vota e andiamo a chiarire intanto quale sarà il quesito referendario. Allora, chi vota no sceglie per la durata della concessione fino ad esaurimento del giacimento, chi vota sì invece sceglie per il limite della durata della concessione. Attualmente le concessioni durano 30 anni e se il giacimento non è esaurito si può chiedere la proroga di 10 e poi di 5 anni. Se vincesse il sì, dal 2016 al 2034 cesserebbe progressivamente l'estrazione entro le 12 miglia, via via che giungono al termine le diverse concessioni, questo al di là che si sia esaurito il giacimento. E il referendum in realtà proposto da 9 regioni aveva 6 quesiti, poi ridotti solo a questo perché il governo ha introdotto modifiche nell'ultima legge di stabilità, in particolar modo ha ridato alle regioni i poteri autorizzativi che inizialmente aveva cercato di centralizzare per velocizzare processi di autorizzazione che sono in Italia tra i più lenti in Europa. Una cosa non si voterà, e cioè le 12 miglia, sono già le nuove perforazioni entro le 12 miglia sono già proibite dalla legge. Allora, Davide Tavarelli, presidente di Nomisma Energia, buonasera. Buonasera, grazie. Lei, insomma, ha difeso pubblicamente le ragioni del no, quindi di mantenere lo status quo sostanzialmente, e invece ringrazio anche Edoardo Zanchini, che è vicepresidente responsabile del settore energia e trasporti di Legambiente, che sostiene, come Lega Ambiente, le ragioni del sì. Buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, mettiamola così, io devo fare una domanda, diciamo, come se votassi l'altro fronte a ognuno di voi, nel senso che Tabarelli, le obiezioni che vengono fatte sono queste in sostanza: attenzione, le concessioni vengono prorogate di anno in anno con la scusa che magari si centellina l'estrazione per fare in modo che non sia esaurito completamente il giacimento. Questo permette però poi a chi ha le piattaforme di non doverle smantellare, di lasciarle lì, con un grosso risparmio per le società petrolifere, per cui magari uno estrae meno in modo da poter dire che c'è sempre un giacimento sotto. E poi dirò cosa penso invece del tema vero di questo referendum. Ma comunque, Tabarelli, è così? No, non è così, sono degli impianti molto monitorati al di là della scadenza della concessione. Mensilmente devono mandare dei rapporti, sono sorvegliati, il Ministero dello Sviluppo Economico, la direzione UNMIC, che invito tutti ad andare a vedere sul sito, fa controlli, sono degli ufficiali giudiziari, perciò molto molto controllate da parte di compagnie, tra l'altro, che applicano le migliori tecnologie disponibili su questo settore. Pertanto non è questo il problema, è stata una forzatura questa della vita del giacimento, estendere la concessione proprio per evitare che la scadenza, essendo questa in un posto dove sono vietate nuove cose, siccome la concessione reintroduce il concetto di nuovo, venissero vietate, che questa poi non è neanche sicuro questo, cioè è una cosa molto confusa, e anche per questo che è una questione un po' marginale, tutto sommato. Poi le dirò invece quale penso che sia un altro tema, Tabarelli, dopo il tema delle royalties. Invece vorrei continuare con chi sostiene il sì, quindi Edoardo Zanchini. Allora, lì c'è il tema delle ricadute occupazionali. Gli addetti diretti sono 5.000 e non si capisce bene quanti saranno, ma è chiaro che se tu vai a esaurire al di là del, perché non dai più la possibilità di proroga, e quindi finisce l'operatività quando finisce la concessione attuale, metti a repentaglio posti di lavoro. Non mi risponda però, li reinventeremo in un altro modo, perché uno quando perde un posto di lavoro o ce n'ha già un altro, non è che possiamo dirgli solo lo reinventeremo. E poi si fa notare che è vero che il fabbisogno nazionale è coperto solo in parte minore da tutte le estrazioni in questo paese. Noi abbiamo sostanzialmente un fabbisogno nazionale che per quello che riguarda le piattaforme viene garantito solo per 7 settimane, però si fa notare che da un lato le tecnologie impiegate hanno standard di sicurezza altissimi, dall'altro che se smettiamo di estrarre lì aumenta anche il traffico delle petroliere. Sì, parto dal primo quesito. Punto è un fatto di economia liberale. Mettere una scadenza a delle concessioni per dei beni pubblici è legge per qualsiasi altro tipo di concessione, cioè vale per le autostrade, come per le concessioni balneari, per l'acqua, per tutto. Secondo noi dovrebbe valere anche per le concessioni di petrolio e gas, e dovrebbe valere a maggior ragione perché siamo un paese che ha tutto l'interesse ed è obbligato ad accordi internazionali a creare le condizioni per una transizione energetica. Per cui a chi ha paura di perdere i posti di lavoro e alla preoccupazione dei posti di lavoro si può rispondere intanto che queste concessioni fino a dicembre, quando il governo è intervenuto, avevano una scadenza fino a 30 anni e quindi le imprese avevano, poi sono grandi, che hanno altri pozzi anche oltre 12 miglia, probabilmente un'idea di come volevano ragionare nei prossimi anni per smantellare quelle piattaforme e ricollocare questi lavoratori. Ma comunque in ogni caso, anche se vince il sì, domani non viene licenziato nessuno, perché semplicemente si torna alla scadenza prevista dalle concessioni. Rispetto invece al tema di come si sostituisce quella quantità di gas, stiamo parlando di gas e di petrolio, stiamo parlando in quello nelle 12 miglia del 3% del gas utilizzato in Italia e dell'1-2% del petrolio, e abbiamo tutto il tempo, se veramente pensiamo, come questo paese ha sottoscritto all'internazionale, di costruire una transizione, di sostituirlo, per esempio riducendo i consumi di gas nelle case attraverso il risparmio energetico, come nell'industria, investendo nel biometano come alternativa concreta al gas che utilizziamo, e spingendo magari la mobilità pubblica più efficiente, un'alternativa. Ci sono le alternative e non sono semplicemente un sogno oggi, delle fonti rinnovabili, come qualcuno dice. Allora, dunque, chiaro, perché se il pozzo termina finisce l'operatività dell'impianto, però qui il problema è che se il giacimento attualmente, se il giacimento non è esaurito, si può chiedere la proroga di 10 e poi di 5 anni, invece se passassero i sì, finisce, poniamo che manchino 5 anni alla concessione che hai, dopo questi 5 anni basta, non puoi più avere altra proroga. Dopo il traffico torniamo sul tema sia con Tabarelli che con Zanchini. Focus Economia. Allora, vi dico in che cosa non mi ha convinto Tabarelli e in che cosa non mi ha convinto Zanchini, per essere appunto, per rispettare anche lo spazio informativo. Tabarelli, secondo me qui il tema, ho capito, lei dice tanto noi, viene controllato attentamente che la compagnia petrolifera non faccia la furba e non dica che c'è sempre qualcosa che è rimasto, diciamo, nel giacimento per continuare di proroga in proroga e non dovere di smettere l'impianto che costa. Ed a me non convince il tema delle royalties, perché noi abbiamo delle royalties molto, le royalties sono gli interessi che tu devi dare allo Stato per sfruttare territorio italiano. Allora, 7% sul gas, 4% sul petrolio. Alcuni paesi hanno già eliminato queste royalties e le hanno spostate tutte sulla parte fiscale. Noi abbiamo avuto 340 milioni di euro di incassi nel 2015, circa la metà attribuiti alle regioni. Di questi solo 38 milioni vengono dagli impianti che trivellano entro le 12 miglia. Quello che mi convince, però, mi lascia più dubbioso, è il fatto che per il regime delle royalties italiane tu non paghi niente come gruppo petrolifero per le prime 50.000 tonnellate di petrolio che estrai ogni anno, c'è una, come se ci fosse una franchigia, e i primi 80 milioni di metri cubi di gas. Secondo molti, devo dire che uno potrebbe avere la tentazione di mantenere la produzione a questi livelli per continuare con, intanto non pagare royalties, e poi avere anche il beneficio che rallenti, diciamo, l'esaurimento del giacimento e vai avanti di rinnovo in rinnovo. Si fa una sorta di evasione fiscale, ma sì, dunque, come diceva lei giustamente, le royalties fanno parte della fiscalità complessiva. Ricordo che in Norvegia e in Regno Unito, che sono i grandi paesi produttori in Europa, dove si producono volumi 100 volte superiori ai nostri, le royalties sono state eliminate negli anni 90, perciò bisogna guardare la fiscalità complessiva. Da noi una compagnia petrolifera sul reddito che genera ha un prelievo intorno al 55%, era il 62% fino a quando è stata dichiarata illegittima la Robin Hood Tax. Adesso intorno al 55 è un valore che è molto inferiore rispetto all'80% che c'è in Norvegia. Tuttavia è un valore troppo alto a giudicare da quello che di solito si fa quando si giudica la fiscalità di un paese per gli investimenti delle società da parte dell'estero o quelle nazionali. Cioè qua gli investimenti sono zero. Pertanto la fiscalità dovrebbe paradossalmente essere ancora più bassa per attrarre investimenti. Ricordo che in Norvegia è l'80% e le compagnie lì fanno la fila per andare lì, perché i tempi di realizzazione dei progetti sono certi. Lì se uno non trova petrolio restituisce lo Stato le spese per le ricerche. Lì ci sono nel Mare del Nord un migliaio di piattaforme. Lì c'è però la mi Norvegia. Scusi Tabarelli, la Norvegia, allora, se lei calcola il prelievo medio sulle compagnie in Italia, siamo in media con la fascia, anzi una fascia medio-alta in Europa. Noi tassiamo appunto oltre il 50%, in Francia tra il 37 e il 50, in Inghilterra tra il 68 e l'82, in Norvegia il 78. Ma il fatto che ci sia la fila per investire in Norvegia vuol dire che se un paese è efficiente investi anche con un'alta tassazione. Certo, corretto, vero, anche per questo allora, oggi è uscita la notizia della Rockhopper, che ha aperto un arbitrato internazionale sulla questione, perché queste norme hanno privato di diritti acquisiti in precedenza chi aveva investito sul famoso giacimento Ombrina, che è quello che ha scatenato tutte queste regioni che fra l'altro hanno pochissimo. Ricordo che Emilia-Romagna e Sicilia, che hanno il grosso delle piattaforme contestate, non hanno partecipato al referendum. Ombrina c'era un progetto da 2 miliardi di euro, ne hanno spesi, chiederanno insomma danni per questa entità. Abbiamo sei noi arbitrati internazionali all'interno dell'Energy Charter Treatment e questi riguardano tutta l'energia. Paradossalmente sono cinque sulle fonti rinnovabili, fotovoltaico, eolico, adesso anche questa degli idrocarburi. Allora, perciò da noi è brutto quello che perde l'economia, al di là del petrolio, che è poco, è poco perché non riusciamo più a fare, ma perde tutto il sistema paese. Allora, Zanchini, vengo alla parte sua che non mi ha convinto come, diciamo, sostenitore del sì e quindi del modificare lo status quo, la situazione attuale. Voi continuate a farla molto leggera sui posti occupazionali. A me, guardi, glielo dico con massimo rispetto, però dire no, ma adesso pensiamo al fotovoltaico. Noi siamo già il paese che ha l'8% di uso di energia solare, siamo a livello primi al mondo. Battiamo la Grecia e la Germania. Però non è che si può dire in questa situazione alle migliaia di persone che operano lì più l'indotto, ma tanto poi si troveranno altre formule, altre forme quando voi andrete a casa, perché non è vero che andavano a casa comunque, perché se tu potevi prorogare fino all'esaurimento del giacimento, magari l'operazione, quel tipo di attività si esauriva fra 15-20 anni, non fra 4-5 anni. Cioè, questo che secondo me voi pigliate in maniera molto leggera, vabbè, lavoreranno nel green, quale green? Il campo da golf? Ok, intanto siamo credo tutti d'accordo sul fatto che il governo ha fatto un pasticcio a dicembre, perché intervenire su questa materia con appunto una proroga a vita utile del giacimento in questo modo pone l'Italia fuori da qualsiasi standard internazionale, per cui no, mi risponde alla domanda, il governo ha modificato, deve essere stato un quesito, perché sennò il sospetto, sa, no, qual è, glielo dico con massimo, però, però faccio domanda su questo punto, è che voi poniate il tema dell'ambiente sempre, sempre e comunque, non che non vada prima del tema dell'economia. Io vorrei che le due cose stessero assieme, prego. Esatto, il punto qual è? Che siccome è stata data una proroga a vita utile del giacimento, se non vince il sì il 17 aprile, come io mi auguro invece che accada, il primo che fa ricorso a Bruxelles per una concessione che non ha un tempo lo fa bloccare da Bruxelles questo cambiamento che è avvenuto a dicembre. Ma torno sul punto, qual è il modello che noi abbiamo in mente? In Germania in 10 anni si sono prodotti 400.000 occupati nelle rinnovabili. Di questi 400.000, 100.000 lavorano nel biogas e nel biometano, che sono il gas e il metano prodotti attraverso discariche, scarti alimentari, rifiuti, che producono che cosa? Proprio il biometano come alternativa al gas estratto e elettricità. Per cui quando parliamo di nuovo lavoro, parliamo di possibilità reali. Qual è il problema del nostro paese in questo momento? Che mentre la Germania, ma anche la Francia e l'Inghilterra hanno una strategia di transizione, cioè non si passa dall'oggi al domani dal carbone alle rinnovabili o dal nucleare, la Francia, al nucleare. Alle rinnovabili, però c'è una transizione. Esempio, la Francia la scorsa settimana ha annunciato che sospenderà le perforazioni e le piattaforme nel Mediterraneo, che invece è una decisione che aveva preso il governo precedente. Perché lo sospende? Perché ha un nuovo piano del clima in cui si costruisce una transizione che nel tempo porta a ridurre i consumi di fanti fossili. Per cui c'è una possibilità concreta. Il problema è che questo paese, e noi ci auguriamo che anche con questo referendum, alla spinta di questo referendum, anche con Lorenzi capisca che deve avere un proprio piano sul clima. C'è un punto sulle royalties che invece va chiarito, perché ha raccontato molto bene Tabarelli la situazione, però c'è una cosa che va aggiunta, che non ha detto, che in Italia le royalties si deducono. Per cui i soldi che io do alla regione Sicilia o alla regione Basilicata poi li deduco dalle tasse, per cui alla fine quanto si paga in Italia è molto poco. Per cui paradossalmente, questo però non siamo contenti. Sì, no, abbiamo fatto un ragionamento complessivo anche sulla fiscalità totale che pagano. Mi dica solo una cosa, e da questo punto di vista, perché devo chiudere entro 30 secondi, ma a lei, insomma, il punto è che a voi dà fastidio che si estragga petrolio in Italia, chiedo? No, a noi intanto ci abbiamo... Mi dica, Zanchini, ma insomma, se lei potesse, smetterebbe... No, perché se lei mi dice che io importo dalla Libia, no, io voglio che si riduca il consumo di petrolio e di gas in Italia e quindi non che si cambi fornitore, ma che si riduca sul serio, e noi possiamo avere la possibilità di ridurlo, ma non stiamo facendo nulla per ridurre il petrolio e il gas che utilizziamo. Beh, insomma, siamo il primo posto come produzione di energia solare, non mi sembra che siamo proprio messi malissimo, siamo davanti a tutto il mondo come percentuale, però vabbè, l'importante era dare la possibilità a tutti e due di rispondere alle mie obiezioni. Io ringrazio sia Davide Tabarelli da un lato che Edoardo Zanchini dall'altro, vi do appuntamento domani dalle 17 in poi e intanto vi auguro buona serata. Radio 24, la passione si sente.